Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, bentrovati a questa puntata speciale di Salva Danaio, una puntata che è dedicata ai consigli per la lettura. Abbiamo scelto qualche testo che, oltre a tenervi compagnia, riguardasse anche le tematiche tipiche del nostro programma. Infatti parleremo di risparmio, di investimenti a rischio, di previdenza e di mutui. Il primo libro che vi presentiamo è un libro di Orazio Carabini, già portavoce della Consob, già direttore del Servizio Studi della Banca Nazionale del Lavoro, oggi è analista e commentatore delle Sole 24 Ore. Ha scritto il libro Generazione No Risk. Sentiamone subito una breve anticipazione. Il dubbio ha attanagliato tutti quanti nel terribile 2008. I miei soldi sono al sicuro? Per mesi è stata l'unica domanda a cui si cercava una risposta. All'improvviso è diventato chiaro che nell'impiego del risparmio di garantito c'è ben poco e che quel rischio di cui si parla distrattamente quando si decidono gli investimenti può trasformarsi in catastrofe da un momento all'altro, tanto da incidere in modo permanente sulle condizioni di vita di una famiglia. In molti casi, purtroppo, la risposta è arrivata troppo tardi. Le azioni erano crollate, alcune obbligazioni e alcune polizze erano svanite nel nulla. I fondi di investimento e i fondi pensione non avevano retto l'urto della crisi. Qualche furbacchione degli hedge fund era stato smascherato. La tempesta finanziaria aveva già fatto strage di risparmi. Nemmeno i conti correnti davano più certezze, perché alcune delle più grandi banche, tra le quali non quelle italiane, erano vicine alla bancarotta e soltanto l'intervento dello Stato ne ha evitato il fallimento. Nel mercato globale nessuno si è salvato dall'onda distruttrice e ora tutti si chiedono: ha senso mettere a repentaglio i propri risparmi per cercare qualche punto in più di rendimento? Orazio, la generazione no risk è quella che nascerà dalla crisi che ci sta travolgendo, se non ho capito male, saltando da una parte all'altra del libro. No, è proprio quella che nascerà dalla crisi. È una generazione fatta di risparmiatori più consapevoli, che non si illudono più di cambiare la propria vita inseguendo i miraggi, i rendimenti strabilianti, quasi come se fossero al quiz degli scatoloni o come se giocassero all'Enalotto. Difenderanno i loro risparmi, cercheranno rendimenti adeguati, si preoccuperanno soprattutto che alla scadenza il capitale ritorni a casa intatto e non vorranno che i nemici, cioè l'inflazione, i truffatori o più banalmente gli incapaci li portino via dei soldi. Ecco, da quando nel nostro paese sono scoppiati gli scandali finanziari più clamorosi del passato, li citiamo ancora tanto per girare il coltello in piaghe mai chiuse, Cirio, Parmalat e Bond Argentini, le pubblicazioni in cui si tenta di spiegare come funzionano gli strumenti di investimento e come scegliere ciò che è adeguato alle nostre esigenze di risparmio sono state molte, perché si è chiaramente manifestata in questi anni la scarsa educazione finanziaria delle famiglie italiane. A questa situazione si è poi aggiunta una crisi finanziaria di portata memorabile che è quella che stiamo vivendo. Tu, analizzando il tema dell'educazione finanziaria, della conoscenza dei temi del risparmio e dell'investimento, che strada hai voluto percorrere in questo libro? Ma dunque, intanto bisogna dire che sì, abbiamo un leggero ritardo, ma la situazione non è così diversa in Italia rispetto agli altri paesi. Il tema dell'educazione finanziaria è un po' diffuso dovunque, c'è una tendenza a sottovalutare l'importanza del proprio ruolo nelle decisioni di investimento, quindi andare un po' a rimorchio di quello che viene proposto dagli intermediari e, come abbiamo visto, non è questa la soluzione migliore. Andiamo a rimorchio, dici? Che cosa andiamo intendi con questo? Ci sono vari motivi all'origine di questo, un po' sono principalmente psicologici, è pigrizia in molti casi, è soggezione rispetto all'interlocutore in altri casi, è più banalmente incuria, insomma. Invece le conseguenze cui si va incontro sono rilevanti, perché possono cambiare anche il corso della vita economica di una famiglia. Quindi il tema è cominciare ad avere, come dire, la capacità di credere nel fatto che bisogna assumere un ruolo meno passivo nei confronti, dico, della banca, ma di chiunque ci faccia e ci fornisca consulenza finanziaria. Vorrei un'analisi, ecco, no, su questo, Orazio, banalmente, perché molto spesso, anche facendo questa trasmissione, raccolgo tra gli ascoltatori la percezione che si possa instaurare una trattativa vantaggiosa per sé con la banca solo se si parte da una posizione vantaggiosa. Assumere un ruolo non passivo verso la banca, secondo te, è possibile se si ha un ruolo non forte anche dal punto di vista economico della trattativa, se si è un piccolo risparmiatore? Ma io penso di sì, perché ogni cliente è importante, quindi il risparmiatore deve far capire che è in grado di distinguere quale banca offre il servizio migliore e quindi di far vedere che non beve acriticamente qualsiasi tipo di informazione gli viene fornita. Orazio, tu esplicitamente dici, questo libro, ce l'hai detto anche prima, è dedicato a tutti coloro che non sono più disposti ad accettare passivamente consigli non disinteressati. Per natura la finanza non è capace di fare un lavoro di questo tipo. Tu ci credi realmente al fatto che la crisi possa portare a questo, ad un mondo in cui gli attori della finanza possano operare in maniera un po' meno disinteressata del passato, o un mondo in cui si possano facilmente anche riconoscere questi attori? Ma io penso che il potere contrattuale, tra virgolette, del mondo della finanza e dell'intermediazione uscirà abbastanza ridimensionato dalla crisi, che dovranno ricostruirsi una reputazione, che avranno un interesse forte ad avere dei rapporti migliori con la clientela. Quindi sì, ci credo, perché altrimenti non avrei scritto il libro. Nella storia economica ci sono stati tanti momenti di crisi finanziaria. Il momento più drammatico probabilmente vissuto lo scorso anno, nel 2008, che per fortuna ci siamo lasciati alle spalle, il momento più pesante vissuto anche da ogni famiglia, da ogni risparmiatore, è stato probabilmente tra settembre e ottobre, quando dietro al fallimento di Lehman Brothers, come un domino, sembrava dovessero cadere e fallire tante altre banche, lasciando tutti a secco del denaro depositato come risparmio. Adesso paga il conto della crisi economica reale, stiamo pagando il conto della crisi attraverso la crisi dell'economia reale. Cosa ci ha insegnato quel particolare frangente in cui tutti si sono chiesti, Orazio, i miei soldi sono al sicuro? Tu lo definisci proprio lo spettro della distruzione totale del risparmio. Sì, ci ha insegnato innanzitutto che non esistono investimenti a rischio zero, nessuna forma di impiego del risparmio è assolutamente priva di rischi, cioè, ci possono essere degli strumenti che hanno bassissime probabilità di farti perdere il capitale, altri che ce l'hanno un po' meno basse, altri che ce l'hanno alte, però tutti questa volta hanno capito che non c'è niente di sicuro al 100%, e tutti hanno capito, forse, spero e mi auguro che questo libro contribuisca a diffondere questa specie di comandamento, che quando il rendimento atteso è elevato è maggiore anche il rischio associato all'investimento. Un concetto troppo spesso dimenticato e che invece poi presenta il conto quando meno ce l'aspettiamo. Ecco, quindi la lezione può essere tratta dalla crisi attuale, però tu ricordi anche, a pagina 15 del libro, uno dei capisaldi delle teorie della finanza comportamentale. Il risparmiatore alla memoria corta tende a dimenticare in fretta le fasi buie per lanciarsi in nuove avventure non appena si delineano opportunità almeno in apparenza interessanti. Quindi ti chiedo, ritieni che questo sia un copione già scritto e succederà anche questa volta, oppure alla luce di quello che ci hai detto poco fa, magari potrebbe anche non succedere? Ma io penso che, insomma, una tosatura, come si dice traducendo dall'inglese, di queste proporzioni, come quella che si è verificata in questo periodo nella storia, non capiti spesso, e penso che resti impressa nella memoria di questa generazione, per cui anche i comportamenti tenderanno ad essere più prudenti, cioè si riscoprirà quella avversione al rischio che secondo le teorie della finanza è tipica delle famiglie, ma che nell'ultimo periodo era stata abbastanza messa in soffitta, per cui tutti si sono buttati in investimenti non sempre adatti al proprio tipo di risparmio. Di che tipo di gestione del risparmio hanno bisogno secondo te le famiglie italiane? Dunque, io direi che sarebbe bene che le persone, le famiglie dotate di un capitale relativamente basso stessero più attente e cercassero di evitare strumenti avventurosi o comunque rischiosi, mentre in questi anni c'è stata un po' la tendenza a dire ciascuno investa per quello che può, ma cercando di guadagnare il più possibile. Secondo me è sbagliato. Chi ha pochi soldi fa bene a preoccuparsi di veder tornare indietro il capitale a scadenza e di avere un minimo rendimento, ma sicuro. Tu affidi già alle prime pagine del tuo libro le tre lezioni per il risparmiatore derivanti da quello che è accaduto in questa crisi, che tra l'altro ancora non ha probabilmente prodotto completamente tutti i suoi effetti. Magari poi, se vuoi, ci puoi offrire anche un commento su questo. Prima lezione: il risparmiatore deve stare attento a questo, non vale la pena di correre rischi inutili con gli investimenti finanziari. Ci argomenti un po' questa prima lezione, Orazio? Sì, è quello che dicevo prima, appunto non dipende dalle dimensioni del patrimonio. Se uno ha un capitale di 50-100 mila euro, perché deve andare a cercare investimenti che rischiano di fargli sparire anche questo piccolo gruzzo? È meglio che si gestisca tra depositi e titoli di Stato, senza andare a cercare cose complicate, come abbiamo visto che sono state le obbligazioni strutturate o le polizze finanziarie legate a indici esotici e altri strumenti derivati di questo tipo. Se uno vuole proprio partecipare al rischio della borsa, perché la borsa è un rischio, è meglio che lo faccia con strumenti, chiamiamoli graduali, cioè investire piccole somme ogni mese che permettano di evitare uno dei rischi maggiori, che è dato dal momento in cui si entra e in cui si esce, cioè permettono di mediare i prezzi comprando tutti i mesi, per dire, una certa quantità di un pacchetto di azioni. Il tradizionale piano di accumulo, no? Il piano PAC. Esatto. No, tra l'altro poi anche lì poi bisognerebbe fare tutta un'altra riflessione sulle consulenze date a questo proposito da parte del sistema bancario, che in questo momento preferisce collocare sul mercato prodotti di tutt'altra natura per fare raccolta, ma questo poi è ancora un altro problema. Il rapporto fra risparmiatori e le banche e gli intermediari finanziari in genere, quale lezione su questo punto? Bisogna ascoltare ma diffidare dai consigli dell'intermediario, perché come abbiamo visto l'intermediario, se ha bisogno di collocare le obbligazioni o le polizze finanziarie per motivi suoi, non guarda in faccia le esigenze del risparmiatore, anzi le travolge le esigenze del risparmiatore, cercando di piazzare più titoli che gli interessano senza curarsi appunto dell'interesse del risparmiatore. Quindi il rapporto di fiducia si è abbastanza rotto con questa grande crisi. Poi il comportamento dei fondi di investimento, che dovevano essere il grande strumento di massa per gli investimenti più sofisticati, ha un po' fatto esplodere il tutto, perché pagare commissioni profumate a chi regolarmente non è capace di battere gli indici è diventato un comportamento masochistico ingiustificato per il risparmiatore. E quindi i risparmiatori, andiamo alla terza lezione, come si devono attrezzare per rispondere come si deve ad un interlocutore finanziario del quale probabilmente non siamo troppo convinti? Beh, appunto, come dicevamo, l'importante è dotarsi nei limiti del possibile di degli strumenti di conoscenza per essere in grado di dialogare, di interloquire con chi offre gli strumenti di investimento, per cui insomma, leggere i giornali e per quanto possibile capire che cosa vuol dire il prospetto di un investimento, cioè dove vengono descritte le caratteristiche di uno strumento. Ci posso mettere anche capire esattamente quello che si vuole dal, come dire, proprio denaro? Nessuno vuole perdere, ovviamente, è chiaro che tutti vogliamo proteggere il nostro investimento e il nostro capitale, ma siamo sicuri poi spesso di andare in banca o da un consulente finanziario con le idee chiare a proposito dei nostri obiettivi di investimento? No, certo, bisogna avere le idee chiare e capire di che cosa abbiamo veramente bisogno, guardare al di là del guadagno che ci può arrivare fra uno o due anni, e studiare a fondo la propria posizione anche in vista della pensione, cioè quando non avremo più un reddito come quello di oggi e dovremo, a volte bisogna far ricorso alle proprie scorte di risparmio. Hai citato un termine molto importante, quello della pensione. C'è un intero capitolo del tuo libro dedicato a questo argomento. Ti chiedo, è vero che ci sono generazioni, secondo quello che tu appunto analizzi nel tuo testo, che soffriranno di più gli effetti della crisi attuale? Perché parli proprio della generazione tra i 50 e i 65 anni, generazione prossima alla pensione? Questo è un discorso che vale più in generale nel mondo intero, perché questa classe di età, quando andrà in pensione, dovrà utilizzare quello che aveva accumulato nei fondi pensione e che adesso probabilmente ancora per qualche anno varrà molto meno di quanto pensava fino a poco tempo fa, cioè dovrà riscattare la sua posizione in un momento sfavorevole. E quindi andrà in pensione con una rendita che vale di meno di quella che si aspettava. In questo senso il crollo delle borse mondiali è stato molto pesante per chi si avvicina, soprattutto per chi si avvicina al momento della pensione. Ma questo è vero soprattutto nei paesi anglosassoni come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, dove i fondi pensione investono la gran parte del loro patrimonio in titoli azionari. Da noi i fondi pensione, che peraltro hanno avuto la sfortuna di decollare nel momento peggiore in cui potessero decollare, che un anno prima di questa catastrofe finanziaria, per fortuna, diciamo così, hanno investito soprattutto in titoli obbligazionari e quindi pagano di meno il prezzo di questo crollo. Un'ultima considerazione, Orazio: nel tuo libro tu analizzi attentamente anche un altro fenomeno che negli ultimi anni è comparso nel nostro paese in maniera probabilmente anche disattesa, date quelle che erano le abitudini all'indebitamento delle famiglie italiane, cioè proprio l'attitudine delle famiglie ad indebitarsi. È un percorso che sta avvenendo in piena consapevolezza o con un minimo di consapevolezza da parte delle famiglie, perché qua continuano ancora a raccontarci che il nostro paese è molto meno indebitato dal punto di vista del debito privato degli altri paesi di tradizione anglosassone, che invece hanno percorso questa strada in altri tempi in maniera molto più intensa. Basti vedere poi che la crisi finanziaria appunto è scoppiata proprio anche a causa di questo. Insomma, come stai osservando questo fenomeno nel nostro paese? La corsa al debito c'è stata, le famiglie hanno imparato a utilizzare di più la leva, così come le grandi banche, ma obiettivamente le statistiche ci dicono che siamo indietro rispetto agli altri paesi. Questo non vuol dire che li dobbiamo raggiungere, perché anzi avere meno debiti è sempre un punto di forza, però dal punto di vista del risparmiatore, della famiglia, l'importante è che si acquisisca anche in questo caso la consapevolezza di alcuni concetti importanti. Il primo è che la decisione sull'indebitamento, cioè per esempio sul mutuo per comprare la casa, è una delle scelte più importanti nell'arco di vita di una famiglia media, che poi è una delle decisioni che incide maggiormente sul reddito e sul patrimonio di una famiglia, quindi va fatta ponderandola bene, cioè valutando bene se è il caso di comprare o se è meglio affittare, quali sono le prospettive di restare in un posto piuttosto che in un altro. E poi decidere se conviene prendere a tasso variabile o a tasso fisso, quindi analizzare le prospettive dei tassi di interesse nel periodo successivo per evitare di fare degli errori. Quindi è il modo in cui si decide che è importante, anche decidere l'indebitamento, le scelte di indebitamento in parallelo a quelle di investimento, cioè la famosa gestione del passivo e dell'attivo integrata va estesa anche al patrimonio delle famiglie. Orazio, il tuo libro si conclude con una serie così di suggerimenti da poter fornire ai lettori del tuo testo, partendo da questo presupposto: il risparmio delle famiglie va incoraggiato, bisogna fare di tutto perché non diminuisca la propensione degli italiani ad accantonare una parte del reddito, tuttavia è necessario ridurre al minimo la possibilità che si sentano traditi o presi in giro. Come si fa ad ottenere questo risultato? Io qui elenco quattro punti che mi sembrano importanti. Il primo è che sarebbe necessaria una campagna informativa, anche gestita dal governo insieme alle banche, per spiegare che tutti gli strumenti finanziari comportano un rischio per l'investitore. In alcuni casi c'è un rischio minimo, come per i titoli di Stato nei maggiori paesi europei e negli Stati Uniti, in altri il rischio elevato, e gli esempi li abbiamo visti più volte. Poi, una volta chiarito che tutto è rischioso, deve essere chiaro quale somma una famiglia può impiegare senza correre rischi, cioè deve avere la sicurezza, per esempio, che fino a 100.000 euro depositati in banca in qualsiasi caso non li perde, e questo serve a dare la tranquillità di base alle famiglie. Tutto il resto marcia per conto suo. E poi, secondo me, a questo punto è diventato del tutto inutile, anzi dannoso, mantenere una differenza di tassazione tra i depositi e le altre forme di investimento. Oggi pagare il 27% sugli interessi su tutte le forme di deposito contro il 12,5% che si paga sulle altre forme di investimento danneggia inutilmente una forma di impiego del risparmio che è l'unica che dà una garanzia al risparmiatore. E infine bisogna incentivare le forme di investimento di natura previdenziale, quelle a lunga scadenza, soprattutto per i più giovani. Si possono incoraggiare i piani di accumulazione nei fondi pensione o anche nei fondi di investimento, anche a contenuto azionario, purché l'orizzonte sia quello della previdenza, lontano nel tempo, i versamenti, come dicevamo prima, con i piani di accumulo siano periodici, in modo che la gente non sia assillata dal controllare tutti i giorni il rendimento di questo o di quello, perché sennò lo scopo viene meno. Grazie a Orazio Carabini, autore del libro Generazione No Risk. Ben ritrovati a questa puntata speciale di Salva Danaio, dedicata alla lettura dai temi del risparmio in tempi di crisi, che abbiamo affrontato con Orazio Carabini. Abbiamo finito la nostra chiacchierata con Carabini toccando anche il tema della previdenza, e continuiamo adesso su questo filone con il prossimo libro che andiamo a presentarvi. Vi presento subito l'autore, anzi l'autrice di questo testo, Viviana D'Abusti, funzionario responsabile dell'area previdenza dell'IRSA, che è l'Istituto per la Ricerca e lo Sviluppo delle Assicurazioni. Dottoressa D'Abusti, benvenuta Salva Danaio. Grazie mille, buongiorno a tutti. Allora, il libro si chiama Il Vademecum della Previdenza, è stato scritto insieme a Giuliano Cazzola, che è uno dei massimi esperti in Italia di lavoro e di previdenza, tra l'altro anche editorialista del Sole 24 Ore, e Domenico Comegna, un altro grande esperto in Italia di queste tematiche, dirigente della struttura tecnica della previdenza dell'INPS. Prima di tutto, dottoressa D'Abusti, mi vorrei togliere una curiosità: che cosa fa l'IRSA, l'ente per il quale lavora? Istituto per la ricerca e lo sviluppo delle assicurazioni, appunto. Quindi l'obiettivo del nostro istituto è quello di aiutare, essere un supporto per le compagnie assicurative e per le banche per quanto riguarda tutti gli argomenti inerenti le assicurazioni e quindi anche la previdenza. Creiamo strumenti a supporto per gli intermediari, così come strumenti per le compagnie, quindi gli interni, le persone che lavorano. Tutto questo col fine di agevolare lo sviluppo e quindi l'aiuto per i lavoratori e quindi tutti coloro che hanno bisogno di prodotti assicurativi e bancari. Io credo, in quasi anteprima, il libro tra le mani, Il Vademecum della Previdenza. Cerco così di leggerlo per i nostri ascoltatori che in questo momento non hanno modo di averlo sotto gli occhi. È un libro che contiene anche una lunga serie di grafici e tabelle, per cui è anche estremamente tecnico. A chi si rivolge? Quali informazioni e spunti è possibile ricavare dal Vademecum per un fruitore medio di un testo come questo, dottoressa D'Abusti? Allora, diciamo che le informazioni che si possono ricavare sono soprattutto informazioni inerenti alla propria posizione previdenziale. Come diceva giustamente lei, ci sono grafici, ci sono torte che hanno cercato di rappresentare dei profili tipo per ogni lavoratore, in modo tale da dare un supporto a tutti i lavoratori per identificare, o meglio, far comprendere meglio il proprio bisogno, fabbisogno di previdenza complementare o comunque di integrazione pensionistica. Ecco, naturalmente credo che ci sia, anzi non credo che ci sia, nelle prime pagine c'è anche, come dire, tutta la cronistoria di quella che è la previdenza pubblica nel nostro paese, accanto anche alla storia molto più recente invece della previdenza complementare in Italia. In questo momento, se lei così dovesse raccontare a qualcuno che non ne sa niente, quali sono i grandi temi intorno al tema della previdenza in generale di cui si discute nel nostro paese, che cosa racconterebbe? Allora, racconterei due temi fondamentali. Uno riferito all'età di pensionamento, soprattutto legata alle donne, che oggi si continua a discutere di una probabile possibile riforma legata anche all'Unione Europea, quindi dell'avanzamento, dello spostamento in avanti dell'età di pensionamento delle donne. E un altro tema molto importante che si sente tuttora parlare, e quest'anno dovrebbe essere un anno abbastanza importante, sono i termini tecnici dei coefficienti di trasformazione. Per farla breve, sono quei numeri che permettono di determinare la prestazione pensionistica e quindi la pensione per tutti coloro che lavorano da una decina d'anni. In relazione, diciamo, ai versamenti previdenziali dei contributi che sono stati effettuati? Assolutamente, in corrispondenza di quelli, diciamo che il capitale accumulato all'età di pensionamento poi deve essere tramutato in una rendita vitalizia, quindi un importo mensile vitalizio per il pensionato. Per fare questa operazione ci sono bisogno di questi numeri. Questi numeri sono in continua revisione e diciamo che nel 2009 dovrebbe una commissione tecnica definire alcuni criteri di linee guida per il prossimo decennio. Ecco, quindi, dato che lei lo ha citato, il 2009 potrebbe essere decisivo per l'avvento di queste novità nel nostro paese, data anche la delicatissima situazione di crisi, secondo lei il nostro paese è nelle condizioni per poter portare avanti questo discorso? Questi due discorsi anche che abbiamo citato. Diciamo che è assolutamente indispensabile, perché se guardiamo la sostenibilità del sistema previdenziale attualmente abbiamo bisogno di queste riforme, abbiamo bisogno comunque di queste modifiche che permettano di creare comunque una visione molto più chiara e molto più delimitata e definitiva, in modo tale che il lavoratore può meglio decidere, fare le proprie scelte per un pensionamento più roseo. Dottoressa Oggi D'Abusti, non è ancora così chiaro. Certo, tra l'altro lei è un'esperta di sistemi previdenziali e immagino che, come dire, la situazione e la condizione anagrafica del nostro paese la osservi molto attentamente. Sì. Sta invecchiando molto rapidamente il nostro paese? Sì, decisamente. Diciamo che oltre a invecchiarsi notevolmente, il problema sono anche moltissimo le nascite, quindi i nuovi lavoratori. Infatti continue riforme sono dettate anche da questo. Rispetto agli anni passati, dove avevamo pochi pensionati e molti lavoratori, adesso diciamo che la situazione si è proprio ribaltata. Si vive molto di più, fortunatamente, ringraziamo il cielo, però diciamo che i lavoratori sono meno rispetto a quanti sono i pensionati. Dovrebbe esserci un numero maggiore. E certo, e quindi di conseguenza questo crea tutto quell'ambito di problematiche, esatto, di squilibrio anche delle casse previdenziali, che è sotto gli occhi di tutti e che si cerca ogni tanto di tornare appunto a far entrare nel dibattito generale, perché sono questioni che vanno disciplinate costantemente. Il 2008, ma anche il 2009, lo dicevamo anche prima, sono anni molto difficili per l'economia in generale, il 2009 lo sarà, lo stiamo vivendo pienamente, per la previdenza lo stesso discorso si può fare. La crisi economica finanziaria non ha risparmiato casse previdenziali, fondi, pensione, che in modo diverso sono stati colpiti duramente. Sicuramente questi sono elementi, dottoressa D'Abusti, che non aiutano un settore, quello della previdenza complementare, che è decollato con difficoltà nel nostro paese. Qual è la situazione? La situazione, diciamo che ad oggi effettivamente i fondi previdenziali, quindi le forme di previdenza complementare, sono state colpite da questa crisi. Ci sono situazioni in cui siamo stati colpiti meno, perché magari le forme di previdenza hanno creato dei meccanismi di garanzia di rendimento, di situazioni tipiche, in modo tale da far sì che il lavoratore, il risparmiatore previdenziale, non subisse questi cambiamenti ma avesse appunto un accumulo certo, garantito. Però possiamo vedere che tutte le forme di previdenza, nessuna esclusa, ha comunque subito questi colpi. L'idea appunto è anche quella: se abbiamo un orizzonte temporale di fronte abbastanza lungo, così come per i giovani lavoratori, l'obiettivo è anche quello di sia tempo per recuperare e superare la crisi in maniera da non compromettere l'obiettivo finale, che è appunto la pensione integrativa. Quali sono, a suo avviso, se dovesse dare un'indicazione pratica a chi ci ascolta, magari le sarà anche capitato di doverlo fare, e essendo ritenuta un'esperta in questo settore, gli elementi importanti per fare una scelta fra tutte le forme di previdenza complementare, come faccio come lavoratore ad individuare la forma di previdenza complementare più idonea alle mie esigenze, secondo lei? Allora, sicuramente per poter fare questa scelta bisogna analizzare nel profondo le diverse forme di previdenza complementare, perché come anticipavo prima ci sono alcune situazioni in cui ho delle garanzie, ma queste garanzie costano, i tipici prodotti assicurativi danno delle garanzie, ma queste garanzie il lavoratore o comunque l'aderente le deve pagare. Gli elementi sono innumerevoli, l'obiettivo, così come anche le riforme e il continuo intervento delle autorità di competenza, è quello di creare delle figure professionali che possono permettere a un utente, a un lavoratore che non si occupa di previdenza e quindi non si addentra in meccanismi molto particolari, ma di aiutarlo a prendere questa scelta. Gli elementi sono tantissimi, io mi sento di dire che oltre alla linea di investimento e quindi la parte finanziaria di cui si sente parlare sempre, anche altri aspetti sono molto importanti, come possono essere le garanzie complementari, il fatto che comunque ha una garanzia accessoria in più rispetto a quella base, come può essere una rendita in caso di inabilità piuttosto che di invalidità, può essere una rendita reversibile, quindi il fatto che se io prima o poi comunque dovesse succedere un qualcosa di un fatto estremo come la morte, ci sia la possibilità di dare la rendita agli eredi o comunque alla persona che si vuole dare questa rendita. Sono tantissimi i fattori, quindi io quello che mi sento di dire ogni volta che mi si chiede qual è la forma di previdenza adatta a me è un'analisi di bisogni, analisi della situazione personale e lavorativa del soggetto, quindi sono troppi e tanti gli elementi che da solo un soggetto non è in grado di identificare. Esatto, e che forse in qualche maniera motivano anche i ritardi per cui molti lavoratori, non dico i ritardi o comunque i motivi per cui molti lavoratori stanno ancora procrastinando questa scelta. Dottoressa D'Abusti, la ringrazio molto per essere stata con noi, ma è un tema che piace molto agli ascoltatori di Salva Danaio, esattamente come i mutui che affronteremo tra un po', per cui non mancheremo di invitarla di nuovo. A presto e grazie. La ringrazio, grazie a voi. Ben ritrovati da Deborah Rosciani a questa puntata speciale di Salva Danaio, dedicata a qualche consiglio di lettura. L'ultimo libro che presentiamo oggi è un libro che riguarda un tema a noi molto caro, il mutuo. La letteratura economica e finanziaria ha versato fiumi di inchiostro negli ultimi anni su questo argomento, ma a quanto pare non se ne sa mai abbastanza. Il problema è che molte famiglie hanno fatto l'amara conoscenza con l'ABC del mutuo solo negli ultimi anni, in concomitanza con la vertiginosa crescita dei tassi di interesse. Come difendersi dal mutuo è un libro scritto da un analista finanziario indipendente, Alfonso Scarano, che saluto. Dottor Scarano, buongiorno e benvenuto. Grazie a voi, grazie mille di avermi invitato. Noi abbiamo letto tanti libri e articoli su questo argomento, lo dicevo prima, negli ultimi anni, perché con la crescita dei tassi di interesse abbiamo scoperto quante famiglie italiane fossero indebitate con mutui a tasso variabile e quindi hanno visto lievitare la rata versata mensilmente. Le chiedo subito che impostazione ha voluto dare all'argomento e se ha voluto anche, oltre a così esprimere qualche suggerimento per le famiglie e i consumatori, dare anche qualche impostazione originale. Ci racconti qualcosa di originale sul mutuo, dottor Scarano? Allora racconto come è nata l'idea e come l'ho sviluppata. Allora, l'idea mi è nata tempo fa quando seguivo da tecnico gli andamenti dei tassi e notavo come i tassi stessero diventando molto pressanti sul lato indebitamento e molto pericolosi per il lato indebitamento mutui. E a questo punto, facendo un ragionamento, notavo come ci fosse un grosso problema di analfabetismo finanziario, cioè nel proprio di non conoscere le tecniche. D'altro canto le banche non hanno fatto granché per far conoscere le tecniche, dando piuttosto delle soluzioni preconfezionate. E allora nelle vacanze estive ho cercato di trovare una soluzione di comunicazione, cioè un qualcosa che fosse un po' più da ponte rispetto alle manualistiche tecniche correnti. E quindi l'idea è di porgere un materiale operativo, di offrire di corredo al libro dei file elettronici con cui calcolarsi le rate e calcolarsi alcuni elementi chiave, che ad esempio è il massimo indebitamento a cui ragionevolmente una famiglia si possa esporre. Quindi non è solo questione di rata e di quantità di rata, ma soprattutto di rata sostenibile. Quindi è stato un percorso operativo per trovare anche delle soluzioni di leggibilità, per cui il libro è leggibile in tre dimensioni, una dimensione di semplice lettura, ma a margine ci sono infiniti approfondimenti, soprattutto normativi, perché la materia è estremamente normata. Estremamente normata, e lo è stata soprattutto negli ultimi anni, quando poi si sono resi necessari molti interventi per dare un po' di sollievo alle famiglie. Magari su questo ci arriviamo, dottor Scarano, però l'altra domanda che le volevo fare, perché il titolo mi suscita una certa curiosità, il titolo che lei ha dato al libro, Come difendersi dal mutuo, perché dobbiamo difenderci? D'altronde questo è l'unico modo che molte famiglie possono avere per poter diventare proprietari di casa, e questo è il sogno di molte famiglie italiane. No, difendersi dalle tecniche del mutuo, ma certo il mutuo è uno strumento preziosissimo, è uno strumento cosiddetto del risparmio differito, e la migliore allocazione del risparmio è per comprarsi casa. Quindi in realtà difendersi da un tecnicismo del mutuo che, se non compreso, potrebbe arrecare gravi danni alla famiglia. Arrivare alla insostenibilità della rata è amarissima esperienza, sia sociale ma soprattutto psicologica, cioè ci sono dei seri problemi nelle famiglie. Allora, il problema non è il mutuo in sé, che è uno strumento prezioso, appunto. Il problema è come un mutuo può diventare insostenibile, come una famiglia sprovvedutamente può sottoscrivere un mutuo senza comprenderne alcuni aspetti essenziali e tecnici, e come in questa sprovvedutezza possa averne nel tempo delle mare sorprese. Quali sono gli aspetti maggiormente sottovalutati da una famiglia quando si accinge a sottoscrivere un mutuo, dottor Scarano? Allora, soprattutto lo scenario temporale. Il mutuo tendenzialmente ormai sta prendendo delle lunghezze sempre più ampie, e quindi una famiglia dovrebbe comprendere che il mutuo dura per i 20 anni, e quindi i ragionamenti che tendenzialmente le banche spingono a fare in maniera momentanea, contingente, adesso tasso variabile molto basso, ma il problema è che per 20 anni può succedere molto. E allora da questo scenario, da questa consapevolezza della lunghezza, deriva anche la consapevolezza della rata sostenibile, che è l'altro elemento basilare. Tra l'altro mi permetto di inserirmi aggiungendo che negli ultimi anni, data l'esplosione dei prezzi delle case, indebitarsi per un numero molto ampio di anni è diventata una condizione assolutamente diffusa in Italia, perché non c'era nessun'altra alternativa, nessuno aveva tanto contante da potersi permettere di comprare casa senza il finanziamento, appunto, legato all'acquisto della casa, dottor Scarano. Certo, il peso dell'investimento della casa rispetto al reddito medio si è quadruplicato, cioè se io posso pensare a mio padre probabilmente aveva un rapporto debito mutuo che era un quarto, o almeno all'epoca di mio padre, un quarto di quello che si può avere adesso. Cioè, se faccio il rapporto metro quadro, peso della rata e reddito medio. Quindi effettivamente è una dimensione che è molto cambiata nell'arco di poche decine di anni, e quindi effettivamente è inevitabile che per un ammontare elevato io debba allungare il periodo. D'altro canto non viene compreso a sufficienza l'effetto del tasso composto, cioè del fatto che un debito per più tempo implica un costo per interessi non proporzionale, maggiore rispetto alla semplice proporzionalità. E questo uno lo verifica non tanto intuitivamente, ma soprattutto mettendo dei numeri e facendo delle elaborazioni. Allora ho cercato di dare anche quegli elementi algebrici, cioè di numeri e di moltiplicazioni e di divisioni, per cui ciascuno si possa fare due conti. Perché è importante proprio mettersi con il proprio cervello e con l'aiuto di un filo conduttore, di mettere giù per iscritto dei numeri e avere un criterio anche di controllo di quanto dicono in banca. Ecco, infatti il tema è quello, perché lei sicuramente ripone delle grandi aspettative nella nostra preparazione anche sui temi matematici. Il tema è che molto spesso c'è un certo punto oltre il quale la nostra capacità di comprensione non riesce ad andare, e lì entra in gioco la capacità invece della banca di farci una consulenza adeguata. Quanto spazio dedica nel suo libro a questo aspetto? Ma in realtà parto da un assunto. Da un'ipotesi che io ritengo abbastanza verosimile. La matematica con cui affrontare i numeri del mutuo è semplice, basta capire alcune tecniche. Allora mi sono dilungato nella prima parte del libro a dire, se vuoi imparare questa lingua, impara come sono utilizzate l'addizione, la sottrazione, la moltiplicazione e la divisione per calcolare piccole cose semplici. Con questi mattoncini semplici, che ritengo alla portata di chiunque abbia fatto, di chiunque sinceramente, basta che si dedichi un attimino e soprattutto non si faccia intimorire. Ecco, ho cercato nel libro di stimolare l'aspetto critico e anche di sollecitare, non abbattetevi, rifate un po' di numeri. Infatti, anche perché quello che è successo sui tassi negli ultimi mesi effettivamente ha generato anche una grande paura fra le famiglie che non solo avevano un mutuo, ma anche fra coloro che si accingevano a stipularne uno ex novo. Dottor Scarano, il tempo a nostra disposizione è scaduto, però ho ancora 30 secondi di tempo, se volesse utilizzarli per poter dare un'ultima raccomandazione a chi, magari ad una giovane coppia, si impegna a compiere questo passo che è molto importante. La raccomandazione è comprendere, mettere a paragone le proposte, fare due conti, avere una sorta di dialettica sulla materia, cioè di comprendere alcune tecniche della materia per fare una scelta ragionevole. E non pensare che astenersi, ad esempio chi ha già il mutuo, che astenersi dal pensarci i numeri non lavorino contro. Ad esempio in questo periodo storico chi ha dei tassi stipulati in altre epoche, perché noi abbiamo avuto un abbattimento dei tassi per cui è cambiato il mondo, rinuncia a ottimizzare o meno a risparmiare notevolmente sui propri costi del mutuo. Questo è molto importante, questo è un momento storico che soprattutto chi ha un mutuo dovrebbe con la buona responsabilità del buon padre di famiglia fare due conti. Perché lo scenario futuro deve essere compreso e non è del tutto prevedibile. Privo di preoccupazioni ed è assolutamente imprevedibile, come abbiamo visto negli ultimi mesi. Grazie molte ad Alfonso Scarano, autore di Grazie Come difendersi dal mutuo. Io la ringrazio davvero per essere stato con noi su questo tema che ci piace molto. Non mancheremo di tornare ad invitarla di nuovo. Intanto termina qui questa puntata speciale di Salva Danaio, dedicata in questo 1° maggio ai consigli per la lettura. L'appuntamento è per lunedì, come sempre, alle 12. Da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti.